finisca questa sigaretta. Tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, ma non te ne ricorda. C'è tanto tempo ancora, il tempo di una sigaretta. Thank you.